Ehi, bimba! Non pensavi che te la scrivevo, eh? Invece, tesoro, non aspettavo altro. Ah? Ti amo davvero, ti amo da tempo. Ti voglio adesso, un bacio, poi resto. Ti amo davvero, ti amo da tempo. Ti voglio adesso, un bacio, poi resto. Digitalo è completamente cotto di brutto, è pazzo, è fatto per te. Amore, amore mio, io in tutti i sensi è fuori, vuole saltare dal palazzo. Quando ti penso sembra che parto, che volo, sei il mio più bello regalo che mi ha offerto il mondo. Poi con questo tuo sorriso te lo devo, questa follia è colpa tua, perciò te lo devo, sì, io te lo devo. Ringrazio sempre Dio per questo cammino e tua compagnia. Ehi, bimba! Non pensavi che te la scrivevo, eh? Invece, tesoro, non aspettavo altro. Ogni cosa davvero, ti amo al suo tempo. Ti voglio adesso, però ci penso. Sto sempre volando. Quando ti penso, dammi il tuo sorriso, ne faccio il mio tesoro. Dammi la tua mano, ne farò l'uso che voglio. Più ti bacio più mi dai, più ti do e più mi baci. Più ti bacio più mi dai, più ti do e più mi baci. Se mi ami grida sì, se mi vuoi grida sì. Sono troppo diretto? La mia vita non è un caso, la tua vita non è più incasinata. Ora ci sono io nel tuo destino, anche se sembra un po' abusivo. Farò sempre del mio meglio per fare felice il tuo viso. Che gelosia quando ci guardano dal basso. Senza vergogna rispondo fatti cacca vostri. La tua invidia la prendo a cacca calci fuori. Che vuoi da me se sono fortunato? Torna dalla tua, la tua ragazza e fagli la festa, no? Comunque a noi non ci interessa del tuo malessere con essa. Ogni cosa al suo tempo, però ci penso. Sto sempre volando. Quando ti penso, dammi il tuo sorriso, ne faccio il mio tesoro. Dammi la tua mano, ne farò l'uso che voglio. Più ti bacio più mi dai, più ti do e più mi baci. Più ti bacio più mi dai, più ti do e più mi baci. Se mi ami grida sì, se mi vuoi grida sì. Sono troppo diretto?